insieme, corteo in ottavo. Sabato 3 marzo alle ore 15 a Piazzale Tiburtino a San Lorenzo, ancora una volta a fianco della lotta in Val di Susa. Il TAV riguarda tutte e tutti noi, perché al di là degli interessi politici che si sono alternati nei profitti su cui le diverse lobby hanno speculato, c'è un'idea di mondo che vuole essere imposta, sottoposta alle leggi dei governi di ogni forma e colore e alla logica dello sfruttamento degli esseri viventi e della terra. Corteo No TAV, sabato 3 marzo alle ore 15 a Piazzale Tiburtino a San Lorenzo. Si parte e si torna insieme. Si parte e si torna insieme. Corteo No TAV. Nella nostra città e in molte altre c'è un lager. È il centro di identificazione ed espulsione in cui rinchiudono uomini e donne immigrate che non hanno i documenti in regola. Perché devono aprire Guantanamo a Roma, a tutte le parti, a ogni città? Questo mi chiedo, che scopo ha? Peggio da un canile qui, siamo a gabbie. Qui le guardie si divertono con noi. La polizia quando entra non sceglie a nessuno, è come lo stadio, chi via via. Che se sentono, loro si sentono onnipotenti qua dentro, capito? Dov'è Mabruca Limoni, una tunisina? Sono con al bagno, l'ho trovata impiccata blu, gialla, nera, capito? Pensano che noi siamo carne da macellare, ma noi non siamo un carne da macellare, noi siamo delle persone umane. Stanno arrivando tutta la polizia con i bastoni, stanno venendo contro di noi! Tutta la polizia sta venendo contro di noi! Siamo sopra il tetto, c'è il fuoco, c'è tutti il casino, vogliamo tutti libertà. E i mesi qua senza via sono. Questo è un centro di concentrazione, questo è fascista questo. Ieri hanno provato a scappare, no? In tanti, la prima volta sono scappati 9 e la seconda volta sono scappati altri 3 e non sapevo niente, non li ho visto, come i vampiri sono usciti. I CIE non si possono riformare, i CIE non si possono umanizzare. L'indifferenza è complicità, chiudiamo tutti i CIE. Eccoci qui, bentrovati e bentrovate sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Quest'oggi, venerdì 2 marzo 2012, alle ore 17.14, minuti primi, inizia Silenzio Assordante. La trasmissione che ogni settimana, ogni venerdì vi parla delle lotte all'interno e all'esterno dei centri di identificazione ed espulsione per migranti, ma che oggi manterrà un occhio ben vispo, ben acceso su quello che riguarda le mobilitazioni e gli aggiornamenti che ci verranno direttamente dalla Val di Susa, quindi uno sguardo particolare alla lotta NOTAV. Logicamente la trasmissione di quest'oggi la vogliamo dedicare a Luca, che si trova in ospedale. Oggi è arrivata la notizia che è uscito, diciamo, dal pericolo di morte, e insomma questa è una notizia che riempie i cuori di tutti e tutte noi, e di conseguenza insomma gli lanciamo un forte abbraccio caloroso, che sicuramente non in questo momento gli arriverà, ma sicuramente a giorni, speriamo, insomma, possa ricevere. E quindi abbiamo mandato lo spot a inizio trasmissione che riguarda il corteo cittadino che si terrà qui a Roma domani pomeriggio, sabato 3 marzo dalle ore 15 a Piazzale Tiburtino. E vi lanciamo nuovamente il nostro recapito telefonico 06 49 17 50 nel caso ci volete contattare in diretta. Se ci volete scrivere, silenziastordante@ondarossa.info. Il nostro sito ondarossa.info, in cui ci potete anche seguire via streaming. Quindi andiamo a fare un breve sommario dei temi che affronteremo durante questa puntata. vi parleremo di un episodio, un'azione avvenuta ieri in Francia. Dopodiché andremo a dare un piccolo aggiornamento rispetto a un'evasione che è avvenuta nel CIE di Trapani. Di un'aggressione avvenuta nei confronti di due persone di origine somala, portata avanti da un poliziotto italiano. Faremo un breve accenno sulla questione dei respingimenti. La Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo ha condannato l'Italia per i respingimenti verso la Libia effettuati mesi fa, precisamente nel 2009. E poi saremo in corrispondenza con un compagno che ci andrà a parlare di come si sta portando avanti la giornata di quest'oggi su In Valle. E questi sempre gli 87.9 di Radio Onda Rossa, siete all'ascolto di Silenzio Assordante. Avevamo preannunciato nel nostro sommario, siamo in collegamento con una compagna del Movimento di Lotta per la Casa di Firenze per parlare di una serie di episodi avvenuti in questi ultimi tempi appunto nella città di Firenze, in particolare dell'aggressione ai danni di due ragazzi somali da parte di poliziotti italiani. Ciao, mi senti? Ciao a tutti. Ciao. Allora, vogliamo iniziare a raccontare questo episodio che è avvenuto nel fine settimana, ma insomma noi l'abbiamo saputo soltanto adesso, ed è uno degli ennesimi casi di violenza e brutalità da parte della polizia. Sì, allora guarda, innanzitutto questo è un episodio che di cui noi siamo venuti a conoscenza tramite insomma i ragazzi somali che abitano nelle occupazioni insomma del movimento di lotta per la casa, quindi non è una cosa a cui abbiamo assistito direttamente. Ad ogni modo è successo che nella notte di sabato due ragazzi stavano rientrando all'Hotel Real, cioè nel centro Pace, nel centro d'accoglienza del comune, che è diciamo nella zona di Via Baracca, e questi ragazzi stavano rientrando, delle persone si sono avvicinate chiedendogli in malo modo. Un attimo che c'è un problema con il presentato. Pronto? Allora ascolta un attimo, scusami. Di fronte, mi senti? Quando hanno fatto questa domanda sono stati colpiti, il ragazzo si è spaventato, è scappato dentro il centro e queste quattro sedicenti poliziotti li hanno inseguiti nel centro con la pistola, impugnando la pistola e minacciando con la pistola sia i ragazzi che l'operatrice, una ragazza bulgara che lavorava nella portineria. Allora... Scusa, ci senti? Pronto? Io non vi sento, a dire la verità. Ok, allora alziamo il nostro volume. Ti volevamo dire che c'è stato un problema con la linea, quindi praticamente tutto il tuo racconto si è dimezzato praticamente. Diciamo è stato superato dalle pernacchie che faceva il telefono di Radio Onda Rossa, i nostri potenti mezzi tecnici, quindi ti volevamo chiedere se puoi ripetere l'accaduto, perché purtroppo quasi è sentito soltanto il fatto che raccontavi appunto che c'erano questi due ragazzi che tornavano a casa nell'albergo e poi è sparito l'audio. Scusaci. Va bene, allora dicevo, la notte di sabato stavano rientrando, sono stati avvicinati da quattro persone che scendevano da una macchina normale. Queste persone in malo modo hanno chiesto a questi due ragazzi i documenti, loro giustamente gli hanno detto chi siete, presentatevi, cioè perché vi dobbiamo dare i documenti. A questa risposta questi hanno iniziato a picchiarli, hanno detto di essere della polizia ma non si sono qualificati con un tesserino, con niente. Questi ragazzi si sono spaventati tanto, sono scappati nel centro e questi li hanno inseguiti con pugnando una pistola, hanno minacciato con la pistola nel centro le persone che erano lì, perché nel frattempo con la confusione sono scesi anche gli altri ragazzi e hanno addirittura puntato la pistola in faccia alla portinaia, che era una ragazza bulgara, un'operatrice di una cooperativa sociale. Questo è quello che è successo. Noi, nonostante non sia stato un fatto che è accaduto in un'occupazione o comunque una cosa che ci ha riguardato direttamente, ci siamo sentiti in dovere di denunciarlo innanzitutto perché non riusciamo a capire per quale motivo il Comune di Firenze, che è titolare di quel centro, non abbia avuto alcun interesse a denunciare l'accaduto. I ragazzi somali avrebbero voluto fare una manifestazione, ma sono molto intimoriti, come già accaduto altre volte, del fatto che poi possano essere cacciati dal centro e cose del genere. Quindi insomma noi abbiamo tagliato la testa al toro e l'abbiamo fatta venire fuori noi un po' questa cosa, perché è una cosa gravissima, che tra l'altro si inserisce in un momento in cui anche se finora diciamo sui rifugiati politici c'era come dire rispetto al trattamento riservato agli altri migranti in città, insomma c'era stata una certa diciamo tolleranza, non saprei nemmeno io come definirla. Invece ultimamente ci stanno raccontando molti ragazzi che vengono fermati a caso per strada sempre da polizia in borghese, un po' minacciati. Insomma, questo è un episodio diciamo piuttosto insomma pesante, pericoloso. Immaginate insomma cosa poteva succedere in un centro del genere, insomma. Però insomma si inserisce in un clima abbastanza pesante che si sta irrigidendo molto in città, ecco. Penso che questo avvenga anche in seguito, questo episodio diciamo particolare, no? Il fatto anche che non si siano qualificati con un tesserino di riconoscimento. fatto. Tra l'altro sembra che non fossero neanche, perché lì accanto al centro c'è una caserma della polizia molto grande e sembra che addirittura queste persone non fossero neanche dei poliziotti in servizio a Firenze, per cui proprio sicuramente diciamo non erano in servizio quella sera, ecco, per cui insomma la vicenda assume anche insomma dei contorni non troppo limpidi, soprattutto anche dopo gli episodi che sono avvenuti a Firenze in seguito al tipo di Casa Pound che insomma ha fatto quello che ha fatto, e una storia del genere rientra a far parte poi di un discorso diciamo poco chiaro, no? Di intimidazioni che possono essere perpetuate ai danni appunto di persone che richiedono diciamo magari asilo politico o quant'altro, in una fase insomma in cui queste politiche che vengono portate avanti sono invece che evitate rafforzate sempre di più. No, infatti, poi insomma in realtà noi la conferenza stampa ieri mattina l'avevamo convocata anche per altre ragioni, perché comunque su questa vicenda dei rifugiati che insomma noi stiamo seguendo ormai da alcuni anni con molta attenzione, insomma siamo l'occupazione, voi insomma ce l'avete seguito anche in quell'occasione quando insomma l'occupazione frutto della Tendopoli che abbiamo fatto l'anno scorso sta per essere sgomberata e a carico di alcuni compagni tra cui me che insomma sono stati particolarmente attivi in quella situazione, c'è in corso un'indagine della polizia municipale che ormai è la guardia privata del sindaco Renzi a Firenze, con delle accuse anche molto gravi, perché siamo accusati di violenza, resistenza, interruzione pubblico ufficio, resistenza valore aggravata, quindi insomma non è una situazione molto semplice, ecco. L'interesse che c'ha il comune evidentemente lo dimostra anche il fatto che non hanno avuto non hanno speso una parola per questa vicenda, nessuno l'ha tirata fuori in modo ufficiale, prima insomma che lo facessimo noi, ora in qualche modo c'è un po' una rincorsa ai ripari, però è il tentativo di rendere ancora più invisibili queste persone che comunque cioè, sono tutelate dalla legge, insomma non è che è una situazione ancora particolare, no? Rispetto alle occupazioni dove abitano altri migranti. Per cui insomma viviamo una situazione un po' difficile e vediamo che succede, insomma non è che ci sono rosee prospettive però insomma. Allora ascolta, scusa se mi permetto di interromperti, quello che è accaduto insomma l'altra sera appunto all'ingresso e quindi poi dentro questo centro non solo evidenzia la voglia e la volontà chiara di sopraffazione, arroganza e brutalità che poi certi individui in divisa, anche quando poi si tolgono la divisa, mantengono nella vita quotidiana, e al di là di dove sono in servizio, quello che sta accadendo a Firenze è qualcosa che si palesa sempre più chiaro da interpretare, ovvero sappiamo di alcune morti che non sono assolutamente inspiegabili, che sono in condizioni di stato d'arresto, e quindi volevamo ovviamente chiederti come questa cosa si sta affrontando in città, se c'è un dibattito aperto e ovviamente nonostante il primo marzo risulti poi una ricorrenza, come se ne è parlato in una giornata di lotta dove anche le persone migranti che sono nate in altri paesi hanno molta più visibilità del solito. Guarda, purtroppo mi dispiace dover dire che quest'anno più degli altri anni questa ricorrenza è stata, almeno qui a Firenze, per noi un'occasione, cioè nel senso è stata costruita in un modo che a noi ci ha visto insomma assolutamente contrari, cioè noi siamo ritrovati in piazza e siamo stati costretti a dover contestare degli aderenti del PD che erano stati invitati dal comitato promotore, e che per noi è stata insomma un'offesa incredibile nei confronti di chi insomma tutti i giorni lotta a fianco dei migranti in una città governata dal PD dove insomma succede quello di cui abbiamo parlato finora, quindi questo prima di tutto. Dopodiché c'è cioè, la cosa che per noi è stata molto molto positiva, da compagni italiani, diciamo, che hanno sostenuto, che sostengono le lotte dei migranti, e il fatto che questa volta siano stati gli occupanti magrebini delle occupazioni che hanno deciso di, come dire, scendere in piazza nonostante le contraddizioni che c'erano, per come era stata immaginata, insomma, il corteo, perché appunto hanno intenzione di andare fino in fondo su queste due morti, per le quali, insomma, è proprio difficile non rimanere indifferenti, perché per entrambe ci sono veramente dei contorni poco chiari. L'ultimo ragazzo in particolare era presente ieri, il fratello, si trattava di un ragazzo tunisino. E, è stato detto prima che era morto d'overdose, come se uno muore d'overdose dopo 3 ore e mezzo che è stato arrestato, e poi che è morto per attacco cardiaco. In realtà, e ieri, insomma, tutti i suoi amici, i suoi parenti avevano portato anche le foto, insomma, di lui, quando i familiari sono andati a fare il riconoscimento era proprio evidente che era stato picchiato, aveva il collo rotto, aveva il volto, insomma, pieno di ecchimosi, quindi è stata una cosa molto molto molto pesante. Noi siamo determinati ad andare fino in fondo, a sostenere, insomma, questa lotta dei nostri compagni magrebini. Ieri abbiamo deciso di non continuare con tutto il corteo, abbiamo fatto una sosta in prefettura, è salita una delegazione che ha consegnato una lettera all'ufficio del prefetto chiedendo, con il sostegno di un avvocato, insomma, che venga fatta luce, insomma, che venga istituita una commissione che si occupi di queste morti. Purtroppo parte dell'associazionismo non ha sostenuto per niente questa rivendicazione, perché siamo rimasti, insomma, eravamo tanti, perché fortunatamente c'erano tanti migranti, però, insomma, è stato brutto, insomma, vedere come purtroppo anche in queste situazioni bisogna assistere proprio a chi ha voglia di mettere la bandierina per primo a tutti i costi, ecco, per cui non importa, perché noi andiamo avanti lo stesso da soli, anzi meglio soli che mal accompagnati certe volte, e bene che, insomma, questa volta il 1° marzo abbia avuto veramente il protagonismo dei migranti, che hanno deciso loro quale fosse, insomma, l'aspetto da tirare fuori con più forza. È molto grave che, insomma, in un mese e mezzo ci sono state ben 2 morti di questo tipo, per cui non lo so, cioè, diciamo che negli ultimi 2 mesi Firenze, che sembrava quasi una piccola isola felice da questo punto di vista, cioè, sta smentendo assolutamente, perché, insomma, è da 2 mesi che non... è 12 anni che vivo in questa città e non mi ero mai provata, insomma, ad affrontare situazioni del genere. Diciamo che l'operato dei fascisti in divisa si sta dimostrando piuttosto di frequente nella città di Firenze. E infatti volevo allacciarmi poi a quanto hai detto all'inizio rispetto al ruolo del PD, che... non per fare collegamenti forzati, però come sicuramente saprai, ieri è stata occupata la sede del PD a Roma in solidarietà con la lotta contro la devastazione e il saccheggio della Val di Susa, che poi possiamo riconoscere in tutti i territori, ma ovviamente il ruolo del PD che sta acquisendo anche rispetto al tema delle migrazioni è quello di una posizione ultranazionalista e patriottica, che ovviamente tende a voler giustificare sicuramente le politiche brutali, però facendo quel passetto quasi umano di dire concediamo la cittadinanza alle seconde generazioni, e quindi un discorso sicuramente che intravede come connotazione patriottica e in termini di italianità anche le persone che nascono su questo suolo, insomma. Io penso che non solo la dimostrazione del fatto che siano piuttosto omologati con chi sia più un pochino più a destra di loro, ma ovviamente si tratta di posizioni che poi dobbiamo affrontare in diverse situazioni, e quindi ovviamente la vostra scelta di rifiutare la complicità di un partito del genere mi sembra l'ottica più giusta per contrastare appunto questo sistema di dominio politico che si sta dimostrando piuttosto infame. Sì, sono perfettamente d'accordo con te. Poi in Toscana questa cosa penso sia ancora più sentiva e più forte rispetto ad altre città, o penso a Roma, eccetera. Noi c'è la depressione, politiche migratorie tremende, eccetera, la viviamo dal PD da anni. Per cui per me è assolutamente vergognoso che questi personaggi si pensino di poter partecipare a occasioni come quelle del primo marzo senza impuniti in questa maniera, perché non si può. Non si può, tra l'altro, in una città dove ormai non è nemmeno più la polizia, ma sono i vigili urbani a operare gli sgomberi, gli sfratti, sembra proprio una situazione da Far West in cui c'è proprio la milizia privata del sindaco. Per cui vediamo che succederà nelle prossime settimane. Pronto? Pronto, mi senti? Ora sì. Allora, considera che ti ringraziamo per la corrispondenza, ci dispiace grazie anche a voi per i problemi tecnici, ma nel frattempo stiamo sentendo anche la diretta da Radio Blackout e stiamo cercando di gestire la diretta da questi microfoni. Ci risentiremo sicuramente presto per avere aggiornamenti. Speriamo per qualche buona notizia, perché qui ci si sente solo nei drammi, quindi speriamo ogni tanto qualcosa si strappa. E va bene, un abbraccio forte. Un ciao, abbraccio cara. A voi, ciao a tutti. Del net in questa città, voi riuscite a contarvi, io vi dico che se riuscite a contarvi il futuro è nostro. 20.000 ermetti, solo 20.000 ermetti, 20.000 ermetti, solo 20.000 ermetti, 20.000 ermetti, solo 20.000 ermetti, 20.000 ermetti, solo 20.000 ermetti, 20.000 ermetti, solo 20.000 ermetti, 20.000 ermetti, solo 20.000 ermetti. Sai, guai per attitudine, la vita come un turbine, l'appartenenza incisa con il cerchio e con il fulmine, marcato dagli impicci, allergico ai feticci, tanti bei discorsi e poi si vendono per due spicci. Fatti non capricci, gente vera non posticci, se giochi con il fuoco poi finisci nei pasticci. Meticci, ribelli, artisti, ladri in questo mondo sono anime dannate giù dal basso fondo, non mi nascondo, ok? Siamo in diretta, cronaca di strada dalla parte della teppa, vi for vendetta, un simbolo che infetta, segnali discontinui in questa trappola perfetta. Saetta d'energia umana, fuori dalla tana con il coprifuoco. Sei un player? Allora fai il tuo gioco. Guardati la schiena se conosci la cancrena che avvelena questa arena. Supporta la tua scena. 20.000 ermetti, solo 20.000 ermetti. Noi divisi in bande siamo il doppio se ci uniamo. 20.000 ermetti, solo 20.000 ermetti. Il futuro è nostro, racconta quanti siamo. 20.000 ermetti, solo 20.000 ermetti. 20.000 ermetti, solo 20.000 ermetti. 20.000 ermetti, solo 20.000 ermetti. Quel giorno sarà guardie contro bande di reietti. La strada in quarantena, troppi a farsi troppo a darci dentro con il cocco. Troppi a farsi brutti sopra il gioco, all'occhio. È un secolo di insidie, un dedalo di invidie. Tu ricorda che il più infame ti sorride. Resto sul chi vive, difendo la contrada. So bene quanto valgo ed ho il rispetto della strada. Là fuori è Torquemada, siamo tutti di passaggio. Ricorda che il problema è la... È sempre 87.9 di Radio Onda Rossa, siete all'ascolto di Silenzio Assordante. Secondo tutti e 30 i piani con gli ultimi moicani. E dopo questa corrispondenza appena effettuata con una compagna di Firenze, vi andiamo a dare notizia di un'evasione di massa al CIE di Trapani. Venerdì 23 di febbraio c'è stata una grossa evasione al CIE di Trapani. Da quel poco che siamo riusciti a sapere, una notizia che stiamo prendendo direttamente dalla rete, tutto è cominciato con una sommossa. La polizia, dopo aver inizialmente tentato di sedare i rivoltosi con botte, idranti e lacrimogeni, si è infine ritirata. Da quel momento i primi reclusi che sono usciti dalle sezioni hanno aperto le porte agli altri e alla fine pare che a scavalcare quelle orrende sbarre gialle ce l'abbiano fatta in una sessantina di persone. Quindi una buona notizia che possiamo riportare durante la giornata di quest'oggi. Mean and happy, mean and happy, mean and happy, mean and happy, mean and happy. happy, meaning happy, enter happy. مين الهابي؟ أنا الرهابي. كيف الهابي وأنا عايش ببلادي؟ مين الهابي؟ أنت الهابي. ماكلني وأنا عايش ببلادي، قتلني زي ما قتلت أجدادي. أجل القانون عن فاضي، ما أنت يا عدو بتلعب دور الشاهد، المحامي والقاضي، علي قاضي نهايتي بادي. حلمك انقل فوق معنى آلية، حلمك لآلية تصير بالمقابر أكترية. ديمقراطية والله انكم ناسية، من كتر ما اغتصبتوا النفس العربية. حبلت ولدت ولا تسمع. E prima di voltare pagina vi diamo conto di una notizia che arriva da Strasburgo. La Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo ha condannato l'Italia per i respingimenti verso la Libia. Respingimenti avvenuti nel 2009 attuate e applicate da parte di alcune motovedette italiane. Durante appunto questo viaggio fu dato ordine di invertire la rotta e quindi di ritornare verso i porti libici dopo viaggi estenuanti e strazianti di donne, uomini e bambini che tentavano di raggiungere le coste italiane. E di qui quindi il monito e la denuncia della Corte Europea dei Diritti Umani, che ammonisce appunto l'Italia per far sì che non continui a perseguire le politiche applicate, attuate dall'ex governo Berlusconi e nello specifico dall'ex ministro dell'Interno Roberto Maroni. لما تضربني كف وعطيك خدي تاني، كيف تتوقع من اشكر الاذاني؟ تعرف ايش انت ولي كيف تخياني؟ راكع ركبي وايدي مربطات، عيون بالارض وجثث مزتتات، بيوت مهدومه، عائلات مشردات، اطفال يتيمه، حريه بكنفشات. انت عمر، انت اردن، احنا بنقبر، ما علينا بنصبر، وجعنا بنستر، اهم شيء انك تحس بامان، تريح وسيب لنا الالام، ما هو دمنا دم كلاب. حتى لا لما الكلب يموت في الرفق بالحيوان، يعني دمنا ارخص من دم الكلاب. لا دمي غالي، راح ادافع حالي لو تناديني ارهابي. مين ارهابي؟ مين ارهابي؟ مين ارهابي؟ مين ارهابي؟ مين ارهابي؟ مين ارهابي؟ مين ارهابي؟ انت ارهابي. E allora, come possiamo non parlare di Notav, della lotta Notav che da alcuni giorni sta andando avanti sempre più massiccia. Differenti le risposte in differenti città italiane, molte sono state le risposte di solidarietà nei confronti appunto del popolo Notav. Le risposte che sono state date sono avvenute anche in vicinanza con Luca, che fortunatamente, per quanto ci dicono dal CTO di Torino, si troverebbe in questo momento fuori pericolo. Vi aggiorniamo su un fatto che sono da pochi minuti, è appena da pochi minuti terminata un'operazione che è durata 3 ore, che ha fortunatamente, per quanto sembra, portato un esito positivo appunto sul corpo di Luca. Quindi possiamo essere tranquilli e tranquille anche in seguito a questa nuova operazione chirurgica. E quindi speriamo in una pronta guarigione. E invece vi andiamo a dare notizia di un'azione che è stata svolta ieri in Francia, e ve la leggiamo come l'abbiamo reperita in internet. Ieri un gruppo di Notav ha sabotato i binari vicino a Lione mentre alcune scritte di solidarietà con Luca Abba sono comparse sui muri del consolato italiano nella città francese. Canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta La TAV non è un problema, tant'è che dall'altra parte delle Alpi, in Francia, nessuno ha protestato, i lavori vanno avanti spediti. Questo ce lo hanno raccontato esponenti politici e giornalisti in questi giorni per definire fuori luogo e sbagliata provinciale la protesta del popolo della Val di Susa contro il nuovo ampliamento dei cosiddetti cantieri a Clarea. Peccato che non sia vero. Come ha ricordato addirittura il pennivendolo Travaglio a Servizio Pubblico e come aveva già fatto Luca Mercalli in una dichiarazione ieri, i francesi hanno scavato solo 3 piccoli tunnel esplorativi e hanno bloccato tutto perché la TAV appunto costa troppo. E addirittura questi 3 tunnel che avevano scavato li hanno anche tappati, e non è vero che non ci sono state proteste, ce ne sono state in passato e anche di vario tipo. E se non sono state particolarmente forti sul tratto della Torino-Lione, invece sono state di massa e continue sul versante pirenaico, dove la popolazione basca ha portato avanti appunto molteplici azioni. E infatti stanno inneggiando ad un durissimo braccio di ferro contro la costruzione della cosiddetta I-Basca, che dovrebbe unire Bilbao con Parigi, devastando centinaia di chilometri di valli e montagne e rovinando uno dei territori più belli del continente. E comunque, nella giornata di ieri, un folto gruppo di attivisti ha protestato energicamente all'interno della stazione di Lione, proprio a Lione, la città francese dove dovrebbe arrivare l'alta velocità che collega Parigi, Roma e Bruxelles, e le quali città stanno cercando di imporre mani militari con le mani militari alla Val di Susa. E infatti, verso le 13:30 di ieri, una trentina di persone con il volto coperto hanno interrotto i binari tra le stazioni di Jean Massé e di Perrache, depositando materiali vari e sassi sulle traversine. Poi hanno sabotato le catenarie, rallentando per parecchio tempo la circolazione dei treni, e dopodiché si sono dileguate, visto che la gendarmerie a volte, insomma, diciamo, non perdona. Prima di dileguarsi, logicamente, sono state sventolate energicamente differenti bandiere no TAV. Molti convogli che sono stati a lungo bloccati nella vicina stazione di Lione, finché gli operai della SNCF sono riusciti intorno alle 16:30 a riparare i danni maggiori e a riattivare la circolazione ferroviaria. E sempre ieri il consolato italiano a Lyon è stato decorato dalle scritte in solidarietà a Luca e a tutto il movimento della Val Susa. Infatti sulla facciata gli attivisti e le attiviste hanno anche gettato secchiate di vernice rossa. Questa è una notizia che logicamente i giornali italiani non hanno riportato, perché non fa comodo in determinati momenti come questi riportare delle notizie di solidarietà attiva che provengono da paesi che non siano il nostro. Quindi rimaniamo con uno sguardo sul no TAV, sempre 87.9 di Radio Onda Rossa. Vi informiamo a titolo appunto informativo che l'Assemblea Popolare in Ottav per quest'oggi è stata spostata alle ore 21 di questa sera. Che nel frattempo qui a Roma, nella capitale, c'è un incontro tra alcuni esponenti del governo Monti e Marco Virano, responsabile per l'applicazione della rete appunto TAV. E in attesa di questo, insomma, vediamo questa comunicazione, in attesa che finisca questo incontro, ve la diamo e aspettiamo l'esito attraverso il quale potremmo dare informazioni maggiori appunto di come sono andate le cose, anche se per quanto riguarda le dichiarazioni dell'attuale Presidente del Consiglio Monti, il progetto rimane tale quale e si continua ad andare avanti. What's the next song? The one about me. Oh yeah. I like this one. E tra pochi. E invece, dicevo, tra pochi minuti andremo in corrispondenza con un compagno che ci andrà a raccontare come si stanno evolvendo le cose su in Valsusa, una giornata apparentemente tranquilla fino a questo momento, ma attenderemo insomma di stare in corrispondenza con questo compagno che ci darà un po' di delucidazioni. Vi mandiamo per ora un attimo il radio blackout. Noi rimbalzeremo immediatamente l'informazione nell'etere libero di blackout. Esatto, come abbiamo ricordato più e più volte in questi giorni, l'informazione di blackout non ha editori, non ha sponsor, la fate voi che siete sulle strade, che insomma l'unico vostro compito è memorizzare nel vostro cellulare due numeri, lo 011 2495 669 e il 346 66 73 263. Per contattarci noi rimbalzeremo nell'etere la vostra voce, i vostri messaggi. Allora, subito ci correggiamo, perché in realtà a bocce ferme oggi, ma appuntamenti ci sono. Oltre all'iniziativa già di cui hanno già parlato a lungo Claudio e Luigi, vale a dire qua in città, ricordiamolo, Corso Reclaim, Reclaim the Fields occupa un terreno demaniale sulla quale, secondo uno dei tanti fantomaticissimi progetti, dovrebbe passare anche la TAV. Sì, dovrebbe esserci il wafer, il questo famoso wafer. Vabbè, riescono così, cercano di rendere bella una cosa orribile, un tunnel a tre livelli sotterraneo, lo chiamano wafer, che è una cosa bella e buona. E comunque, appunto, fermata la metropolitana Piazza Massaua, per chi vuole raggiungere Azzi, parcheggio GTT 20 unica, li troverete sicuramente lì a zappare. Allora, dicevamo, due appuntamenti, uno nella nostra regione ad Alba, via Maestria, angolo via Paruzzi, già dalle ore 17 in corso un presidio informativo in solidarietà con i NOTAV. Purtroppo non abbiamo alcun contatto telefonico con Alba, quindi se siete all'ascolto da quelle zone, o comunque sapete chi può aver organizzato o partecipare a questo presidio, fatevi vivi. E poi dall'altro capo d'Italia, in Basilicata, un saluto agli amici e ai compagni lucani, alle ore 18 a Potenza, in piazza della Prefettura, presidio informativo NOTAV. Messaggi che chiedono informazioni su quello che avverrà quest'oggi, appunto non abbiamo detto bocce ferme, più che altro sembrerebbe essere bocce ferme in Valsusa, insomma la comunità, il cuore un po' pulsante di questo movimento che poi si è esteso con braccia, gambe, ovunque in giro per l'Italia, e ci si chiede insomma se questa sera ci sarà solo l'assemblea, seguirà anche qualche blocco. Io direi che l'unica risposta che possiamo darvi è andare su a seguire l'assemblea e poi vedere cosa succede. E allora torniamo, torniamo, eccoci qua. Eccoci qua. Ehi. Ci stiamo. Che cazzo sta succedendo? Alla fine niente di che, documenti, trick e track e via, erano solo, tra virgolette, le pecorelle di... Eccoci qui, di nuovo in onda, sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Stavamo mandando lo streaming di Radio Blackout, qualche problema tecnico di cui vi chiediamo scusa. Siamo ora in collegamento, come vi dicevamo qualche minuto fa, in corrispondenza quindi con un compagno che si trova su, appunto, in valle. Buon pomeriggio a te. Ciao, ciao a tutti e a tutti. Pronto? Pronto, ci senti? Pronto, ci senti? Ecco, ora sì. Prima ok, perfetto. No, scusa, perché stiamo cercando di fare il ponte radio con Radio Blackout nei momenti in cui ci sono delle analisi che possono interessare anche in questa città, e per questa ragione siamo così con un mixer e angosciati dalla nostra un po' incapacità tecnica, però ci siamo. E allora, ascolta, noi ti chiamiamo in una giornata in cui appunto abbiamo capito che si stanno recuperando energie, si stanno facendo sicuramente delle riflessioni per continuare con la stessa determinazione, con sicuramente più forza e coraggio. Noi ovviamente adesso sentivamo dai microfoni di Blackout come da qualche ora si sta dando la notizia dell'occupazione di una nuova nuovo pezzo di terra da parte dei Notav, e ovviamente si parla di un'iniziativa che accogliamo con simpatia e solidarietà, anche perché si tratta di una riappropriazione di ciò che vorrebbe essere strappato a quella valle, ma come accade in diversi territori, e si tratta di qualcosa che ovviamente noi sappiamo identificare come un principio di autogestione, autodeterminazione, e ci è subito immediatamente venuto in mente il discorso della solidarietà che è stata dimostrata sia nei confronti delle persone arrestate sia nei confronti di Luca, quando appunto si è scelto da parte del movimento Notav di riaprire sia il negozio da barbiere di uno dei compagni Notav arrestati per poter provvedere all'autosostentamento sia del compagno che della famiglia stessa, e sia appunto la solidarietà diretta che è stata dimostrata nei confronti di Luca quando si è scelto attraverso l'Assemblea Popolare di continuare a coltivare la terra che Luca ha coltivato fino a pochi giorni fa. E ci sembravano degli esempi ovviamente caratteristici di un territorio, ma degli esempi che a noi ovviamente ci fanno immediatamente pensare come nessuno dentro il movimento Notav si possa sentire solo o sola lottando appunto in difesa della devastazione e del saccheggio di quel territorio. Quindi con te volevamo partire con questo, per poter fare insomma un'analisi insieme di queste giornate. Beh, c'è una cosa mia da aggiungere rispetto a questo, è proprio il fatto che il livello pure di solidarietà espresso, abbiamo tirato fuori degli esempi che sono un po' più eclatanti, insomma, quelli che sono facili da dire perché immediatamente comprensibili, ma la solidarietà in valle si esprime in mille forme, perché insomma anche tra gli stessi manifestanti, nelle situazioni anche di e tensione create tutti questi giorni e così, diciamo che sempre ci si trova davanti a atteggiamenti di questo tipo, insomma, che possono magari sembrare meno forti o meno impegnativi, ma comunque sono costanti e continui, cioè impregnano proprio ogni momento. L'abbiamo visto, insomma, c'è solidarietà tra generazioni di tutti i tipi, c'è solidarietà tra generi e razze, continuazione tra religioni, mi viene da aggiungere, insomma, veramente è una cosa che si percepisce stando qui, si prova in ogni, anche con noi che magari spesso partecipiamo come persone che non sono della valle, ma insomma siamo solidali, partecipiamo alle loro iniziative e questo veramente siamo accolti in una maniera che spesso, insomma, fa piacere, insomma, dà forza. Allora, ascolta, appunto questa giornata è stata sicuramente di riflessione e di recupero di energie che sono state spese con tutta la determinazione che è stata dimostrata e che è stata raccolta e rilanciata anche da diverse città. Quello che stiamo notando, ovviamente, e penso che sia molto sentito anche in valle, è il discorso della riproducibilità della lotta e delle stesse strategie che sappiamo riconoscere in più di 20 anni di lotta, e quindi, cioè, prima dicevamo che le stanno provando tutte e si stanno dimostrando sempre più determinati a sperimentare quello che è il principio dell'autogestione in contesti anche ostili e di attacco perpetuo. E ci puoi descrivere qual è la sensazione dei valligiani e del movimento NoTav nonostante le provocazioni ricevute in questi giorni, che sono state molteplici, tra quelle più dirette a partire appunto dalle cariche brutali, dagli sgomberi e dal tentativo appunto di uccidere Luca, che stava dimostrando la propria lotta, come potesse perseverare con determinazione, e nonostante queste provocazioni, che aria si respira in valle, appunto? Beh, diciamo che partendo dallo sgombero della Carea con la caduta di Luca, e quello che è successo si è rimesso in moto veramente qui uno spirito, cioè è stato davvero un crescendo di provocazioni, di soprusi continuo e ogni giorno, insomma, la continuità di questi momenti di mobilitazione è forte. Si ragiona veramente su impegni di giornate intere senza pausa, e la cosa che posso notare, e questo posso dire anche dopo ieri, insomma, con i blocchi e il corteo che c'è stato, che sono stati partecipatissimi, cioè, e continuavano nonostante situazioni di tensione, di rischio, di pericolo a cui la polizia ha costretto tutti i manifestanti l'altra sera, così ha fatto altro che portare ancora più gente. Ieri veramente nell'occupazione dell'autostrada c'era ancora più bambini di quanti siamo abituati a vederne, ancora più famiglie, ancora più gente anziana, gente che per differenti e vari problemi ha difficoltà a muoversi, ma non, cioè, questo non impedisce niente, anzi la cosa che stiamo provando, e questo è posso dare come un dato oggettivo, cioè è cresciuta esponenzialmente alle provocazioni, quindi la reazione è veramente da forza, da voglia di continuarci a esserci, di stare, scende sempre più gente in piazza, insomma. Le cariche l'altra sera che hanno toccato l'interno della città di Bussoleno sono state molto sulle bocche dei valligiani questi giorni. La cosa non è piaciuto anche chi di solito non si o non vuole rendersi conto di quello che può essere la militarizzazione, la violenza della polizia, è stata costretta suo malgrado a subire lacrimogeni all'interno delle abitazioni, cioè i fumi dei lacrimogeni all'interno delle abitazioni, idranti che scorrazzavano per le strade, avete visto bar tirati giù, avete visto macchine danneggiate, cioè questo qui e la comunità l'ha percepito come un attacco frontale, un attacco diretto, e secondo me, insomma, non sono il solo, insomma, a poterlo vedere, e la reazione continua a essere ancora più popolare, ancora più di massa. Ieri sera veramente si è mobilitata veramente, veramente tanta gente. Ma infatti da questo, proprio da quello che ci dici tu, poi c'è un famoso slogan che dice: la Valsusa paura non ne ha, nel senso che una risposta del genere a volte fa sì che poi appunto la resistenza e la solidarietà diventi sempre più ampia rispetto invece al timore, alla paura che magari potrebbe venire in mente alle persone in maniera, diciamo così, immediata, no? E invece proprio la risposta maggiore è fortunatamente appunto è questa, insomma. E ovviamente appunto da quello che dicevi tu si evince in maniera piuttosto palese il discorso per il quale si esclude a priori il discorso di una regia esterna capace di manovrare un movimento intero e di condurlo e di spingerlo verso una violenza cieca, perché appunto come dici tu, più avanzano le provocazioni, gli attacchi e le aggressioni, più la risposta e il rifiuto di militarizzazione e soprusi sono sempre più estesi all'interno della stessa popolazione. Sì, certo, la differenza di percezione che si ha proprio all'interno della valle con quello che si legge sui giornali, cioè qui quando escono questi titoli infami che i giornali per tutti questi giorni hanno sbandierato sulle loro pagine, e la gente si fa una risata, se ne parla al bar come se parli della partita di calcio, perché è data per scontata il fatto che loro non hanno mai riportato la verità sui loro giornali, quindi c'è una bella risata, vanno avanti, tirano dritto, sono molto attenti all'immagine che il movimento notava, ma non sono disposti poi a scendere a compromessi tanto quanto vorrebbero gli altri. Quindi è un po' esorcizzato, mentre magari leggendo i giornali, sentendo un po' di voci da fuori, qui il grande dell'informazione che passa è quello. Qui tanti vedono i telegiornali con abbastanza superficialità, perché comunque già sanno che quello che riporteranno non solo è falso, ma probabilmente gliene va contro, insomma, ma non si preoccupano di questo, siamo più preoccupati noi che loro, insomma, vanno avanti diretti. Allora, ascolta, un qualcosa che sicuramente da lontano intravediamo come un qualcosa che sia capace di innescare anche parecchia rabbia è il discorso rispetto alla militarizzazione del territorio, che è uscita completamente fuori dal discorso del non cantiere, quindi confinata nel territorio che logisticamente vorrebbero preparare ad ospitare quell'opera abominevole, e che quindi appunto sia con le cariche dentro il paese di Bussoleno, sia con i cambi guardia o con l'attraversamento degli stessi mezzi militari all'interno delle città, risulta sicuramente sempre più palese agli occhi della gente. E un qualcosa non so, pensavamo fosse possibile il discorso rispetto alle relazioni fra gli abitanti della valle, ovvero questo tentativo di provocare incendiando automobili, incendiando addirittura un negozio di ferramenta o distruggendo un bar semplicemente perché ospitava delle persone che cercavano di scappare dalle cariche furiose, è considerato un problema all'interno delle relazioni della valle o tutto si sta risolvendo e dissolvendo? Beh, no, penso che la differenza grande che c'è stata è stata proprio quello che la popolazione della valle direttamente dove risiede ha potuto vedere e ha subito un attacco diretto, cioè senza filtri, senza racconti, cosa che magari sulla Clarea aveva un pochino il fatto che sia un po' più inaccessibile, non sia sotto gli occhi di tutti, insomma, aveva un po' questo limite di essere un problema al centro del territorio, insomma. Quindi questo spostamento poi del conflitto sull'autostrada e all'interno dei paesi, è chiaro che a parte viene subito proprio come un'aggressione, insomma, ma è chiaro che pone il problema al centro, insomma. Noi ieri abbiamo subito per esempio un controllo esagerato rispetto a quello che poteva, a quello che doveva e poteva essere. Stavamo tranquillamente a mangiare dentro un posto di amici, ci hanno tirato fuori, abbiamo fatto anche, abbiamo, i compagni Radio Blackout hanno anche mandato il resoconto, perché insomma abbiamo chiamato perché faceva un po' ridere, insomma. Noi stavamo addirittura in infradito a 1000 metri d'altezza uscendo dal ristorante, insomma, e ci siamo trovati con macchine in borghese, macchine in divisa, e è arrivata dopo un po' una camionetta in una piazza del paese minuscola che non riusciva neanche a fare inversione, insomma, schierate con l'antisommossa. Eravamo 6 persone che veniamo da tutte le parti d'Europa, mi sento di dire, in una, quasi una cosa esilarante, insomma, per e questo qui la gente del paese si chiedeva molto che stava succedendo, insomma, non sono abituati a questo livello di militarizzazione, incominciano a averceli dentro e non hanno il poliziotto normale, hanno il Robocop che si muove con mezzi giganti che non sono cingolati, sono gommati, ma sono blindati, grandi, insomma, diciamo che sono paesi che cominceranno e già lo stanno vedendo, insomma, è chiaro che il cambio di passo è evidente a tutti, insomma, si trovano davanti un problema che è di altro tipo, lo possono vedere in tutta la sua complessità e in tutta la sua prepotenza, insomma, ce l'hanno il problema e ce l'hanno forte. Lo certo. Sentono, lo vivono così, e devo dire che ho sentito molta rabbia e questo non può che farmi piacere, insomma. Il suo, con un vero sopruso, non che fino adesso non avevano questo tipo di percezione, ma è chiaro, è palese, lo esprimono continuamente, le assemblee che avete mandato, insomma, pubbliche, popolari, rendevano bene questa di passaggio, insomma, non c'è un intervento che non puntualizzava questo aspetto della questione, insomma, che è un aspetto forte, forte. Allora, noi ovviamente, se non hai nulla da aggiungere, possiamo concludere qui questa corrispondenza, ovviamente invitandoti a comunque avvisare i compagni e le compagne Notav e il movimento intero del fatto che a Roma ci sarà un concentramento cittadino previsto per domani a Piazzale Tiburtino alle ore 15. Ti interrompo un attimo, queste notizie che arrivano da fuori sono seguitissime, se ne dà conto di volta in volta con ogni canale possibile, ma a parte Radio Blackout che veramente sta facendo un lavoro sotto gli occhi di tutti che è impressionante, però anche questo è oggetto di discussione, se ne parla, se ne dà comunicazione, sono orgogliosissimo di questo, sanno che è un punto di forza, che sanno che il cerchio si sta allargando, anche il discorso che facciamo prima dei media un po' lavora su questo, cioè non si preoccupano di quello perché stanno vedendo che la lotta con le caratteristiche giuste, che insomma superano addirittura quelle della TAB come problema particolare, si stanno allargando la sensibilità delle persone intorno, la solidarietà espressa, sono attentissimi a queste azioni, a queste cose, in ogni assemblea si fa un pochino il resoconto di quello che sta succedendo nelle altre parti d'Italia e non solo, perché effettivamente ad oggi ci sono mobilitazioni anche molto lontane da qua, no? Molto molto. E assolutamente anche molto partecipate, quindi certo. Ovviamente no, non volevamo assolutamente delegarti da questi microfoni nell'avvisare un movimento Notav che nella comunicazione comunque si sta spendendo e sicuramente non in toni giustificatori nei confronti poi delle infamità che vengono raccontate dai media di regime, e per questa ragione ovviamente era pura formalità, caro. Va bene, allora noi ti ringraziamo veramente tanto per questa testimonianza, questa corrispondenza, e ci andiamo ad aggiornare, insomma, magari a più tardi, in modo tale che possiamo avere qualche notizia in più, anche magari dopo cena, rispetto a come andrà la assemblea di questa sera, appunto l'assemblea popolare Notav. Ti ringraziamo, se non hai null'altro da aggiungere, e ci aggiorniamo. Quindi se non hai nulla in contrario, a più tardi, insomma. Esatto, fatemi sapere, se, perché immagino Radio Blackout manderà la diretta, non avrete problemi, altrimenti una telefonata. Sì, guarda, un unico avviso che ti faccio è il discorso che spesso durante l'assemblea Notav lo streaming di Radio Blackout è estremamente ascoltato, tanto da non poterlo raggiungere in alcuni casi. Quindi se ci sarà bisogno di un supporto tecnico, preparati. Okay. Allora ti ringraziamo e ti mandiamo un abbraccio immenso. Buona lotta. Ciao a tutti. E allora, dopo questa grande corrispondenza, e quindi dicevamo, dopo la corrispondenza che abbiamo appena effettuato, vi andiamo a ricordare gli appuntamenti che ci saranno quest'oggi ad Alba, via Maestra, angolo via Paruzza, invece a Potenza alle ore 18 in piazza della Prefettura. E invece, per quanto riguarda gli appuntamenti di domani, sabato 3 marzo 2012, andremo a una iniziativa ad Alessandria, un'altra a Catania alle ore 12:30, un presidio di fronte alla stazione ferroviaria. Un'altra mobilitazione domani a Mantova alle ore 15:30 a Piazzale Matrici di Belfiore di fronte alle poste, un'altra a Pavia alle ore 16, Piazza della Vittoria, un'altra a Pesaro alle ore 16, Piazza del Popolo, a Roma domani ricordiamo corteo alle ore 15 a Piazzale Tiburtino qui in quel di San Lorenzo. E invece abbiamo anche da segnalarvi tre iniziative che ci saranno all'estero, non in Italia, una a Dublino, un'altra a Londra alle 14 di fronte al consolato italiano, e un'altra nei Paesi Baschi alle ore 11 di fronte alla stazione delle ferrovie. Corrado Colombo. Un gruppo di noi è sul tetto, negli uffici della Repubblica TV e della Carta Stampata, mentre un gruppo è qui alla base del palazzo. E chiaramente, insomma, le motivazioni che ci hanno portato qui sono chiare a tutti. Il modo in cui sono state trattate le questioni della Val di Susa in questi giorni dai media mainstream e anche da Repubblica è a dir poco vergognoso. Insomma, mentre c'è un paese intero che si solleva e che lotta al fianco della Val di Susa, quello a cui viene invece dato risalto sono delle cose appunto vergognose, delle sciocchezze, come può essere il manifestante che si interroga sul coraggio o meno delle forze di polizia che stanno sull'autostrada a manganellare la popolazione. Questa cosa a noi ci sembra vergognosa, ci sembra doveroso venire appunto a Repubblica a ricordare che l'informazione si fa in un altro modo, che devono dare voce alla Val di Susa e a tutti i movimenti che si stanno mobilitando appunto al loro fianco. E per questo, insomma, siamo qui. In questo momento abbiamo richiesto un incontro col direttore Ezio Mauro, in questo momento è arrivato il vice direttore che sta incontrando alcuni di noi. Chiaramente la polizia è arrivata in forze immediatamente, c'è sia la Digos che due blindati, ma in questo momento, insomma, siamo qui e stiamo cercando di capire il da farsi. Ci sembrava doveroso portare la nostra solidarietà alla Val di Susa anche in questo modo, cioè ricordando ai giornali, alla carta stampata, all'informazione che c'è tutto un pezzo che in questi giorni invece non è stato raccontato. Viene raccontato il povero poliziotto che si rifiuta di rispondere alla provocazione, ma non viene raccontata invece un'intera popolazione che lotta con dignità per la propria libertà. Insomma, per questo siamo qui. Sì, infatti proprio stamattina abbiamo parlato durante la rassegna stampa degli articoli che Repubblica continua a pubblicare ancora e anche di articoli di critica a appunto l'atteggiamento adottato da Repubblica. Senti, ci puoi raccontare un attimo quanti siete, la presenza appunto vostra, che cosa intendete fare? Quindi state aspettando praticamente l'incontro con Ezio Mauro. Sì, esattamente, in questo momento siamo stati ricevuti dal suo vice. Ezio Mauro non si è ben capito se è presente o meno nel palazzo. Comunque siamo una cinquantina, diciamo una ventina sopra e una trentina sotto, e rimaniamo ancora un po' qua, cerchiamo di capire anche quali sono le intenzioni delle forze dell'ordine, come sempre esagerate sia nei numeri che nei modi, e poi chiaramente oggi pomeriggio tutti quanti andremo all'appuntamento alle 3 a Piazzale Tiburtino. Perfetto, guarda, ti ringraziamo per questa tua corrispondenza e poi naturalmente poi ci vedremo e ci sentiremo anche nei prossimi minuti. Se ci saranno appunto problemi, contattaci quando vuoi. Va bene, grazie sempre da io, Luca. Ciao. Vabbè. E come avete sentito dall'appunto corrispondenza che abbiamo da poco appunto ascoltato, c'è appunto un'occupazione della sede di